La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, in questo venerdì 5 di maggio, 16:30, primi 48 secondi, in diretta dagli studi di Milano Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto, in diretta o in podcast, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Per il resto, oltre che a quell'indirizzo, potete naturalmente anche scrivermi sui social, i messaggi diretti su Twitter oppure su Facebook. Io ho sia la mia pagina che poi il mio indirizzo individuale. Detto tutto questo, vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo di una polemica che è emersa a seguito del voto di fiducia in Senato sul disegno di legge sulla concorrenza, che pare dopo 2 anni si sblocchi, adesso tornerà alla Camera, vediamo. Ma al di là di quello, non parliamo del disegno di legge in concorrenza in generale, anzi questo sarà uno dei due argomenti forti domani ai Conti della Belva. Vi do già fin d'ora appuntamento dalle 10 alle 12 come sempre con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminario e Renato Cifarelli. Oltre a questo parleremo di quello che sta succedendo nel mondo bancario, non solo del tempo che continua a correre dopo quest'ultima trimestrale sanguinosa di nuovo di MPS, le due banche venete con il negoziato europeo che va per le lunghe, e poi soprattutto ci soffermeremo su un punto che è un po' fuori dall'attenzione generale, perché stanno votando oltre 300 banche di credito cooperativo per scegliere in quale holding nazionale andare, e quindi prenderemo in esame soprattutto quest'ultimo tema. E quindi fin d'ora vi dico, se avete titoli di quel vasto arcipelago non quotato che sono le BCC, allora domani è il giorno per ascoltarci, per telefonarci dicendo che cosa ne pensate, che cosa avete capito. Ma del disegno di legge concorrenza in particolare parliamo di una norma che è tra virgolette esplosa in termini polemici, la trovate sui giornali di oggi, chi più chi meno, ma insomma molti dedicano una pagina intera all'argomento, ed è anche la mia curiosità, se volete telefonarci 800 24 00 24, perché si tratta di una norma che riguarda il telemarketing, quindi le telefonate che si ricevono dai call center. Mi interessa capire quanti di voi sono colpiti dalla falcidie di telefonate dei gestori telefonici, delle aziende tramite call center che vi inseguono per proporvi prodotti, variazioni di contratti, passaggio di servizi da un gestore all'altro e così via. Se avete trovato nella vostra vita, nel caso in cui vi capitino, a me capitavano, li ho fatti smettere, ma mi capitavano troppo per i miei gusti, se vi è capitato, se avete trovato dei rimedi, oppure se considerate che il ricevere questo tipo di telefonate sia una molestia che chiede più garanzie al cittadino consumatore e che quindi bisognerebbe cambiare qualcosa. Perché è esattamente su questo punto che è intervenuta una norma contenuta nel testo poi l'emendamento approvato in Senato al disegno di legge concorrenza, passato appunto con voto di fiducia posto del governo, perché rispetto alla modifica delle norme attuali esattamente a tutela del consumatore di fronte alle telefonate dei call center, il garante della privacy Antonello Soro ha emanato un parere molto polemico, esplicitamente polemico. Ha detto: questa norma suscita nell'autorità garante della privacy sconcerto e preoccupazione, sono le sue parole testuali, perché la spiegazione data dal garante è questa: la nuova norma, così come modificata sul testo su cui è stata posta la fiducia in Senato, virgolette, elimina il requisito del consenso preventivo da parte ovviamente di chi riceve la telefonata, liberalizzando il fenomeno del telemarketing selvaggio. Quindi il garante della privacy dice: cari italiani, guardate che questa norma vi rende bersaglio ancor più facile e indifeso delle prassi ripetute contro la vostra volontà. Dopodiché, continua il garante, dice: questo testo va in direzione diametralmente opposta ai termini che erano stati discussi in commissione al Senato. Allora, si tratta di capire, poiché naturalmente ci sono pareri assolutamente opposti, se l'allarme del garante è vero o non è vero, punto numero uno. Punto numero due, che cosa è davvero cambiato? E poi punto numero tre, ma è cambiato in meglio o in peggio? Perché questa terz'ultima domanda? Perché molti giornali, secondo me giustamente, lo avrei fatto anch'io, hanno collegato questa modifica, sia pur in assenza di ogni tipo di collegamento diretto, quindi è una illazione giornalistica per così dire, però il nostro mestiere a quel punto è dire, beh, grattiamoci la testa, ma se ha ragione, se ha ragione, ripeto, il garante della privacy a dire che è un'apertura a prassi ancora più indiscriminate di telemarketing selvaggio, non è che per caso è una specie di, tra virgolette, favore, poiché grandi gruppi di call center sono stati nel nostro paese al centro di grandissime trattative perché stavano abbattendo i loro occupati in Italia. Il caso di Almaviva, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, ne abbiamo parlato dal punto di vista della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma che ha indicato nei rappresentanti della CGIL a Roma di Almaviva i responsabili dei licenziamenti, una cosa senza precedenti nella storia italiana, mentre vi ricordate, e quindi 1066 dipendenti in meno dei call center di Almaviva a Roma, mentre gli 800 errotti di Napoli, invece, le cui rappresentanze hanno avuto un diverso comportamento sindacale, hanno avuto, sia pur in presenza di diminuzione degli salari, eccetera, eccetera, ma il posto del lavoro per il momento salvo. Però noi siamo in presenza in questi anni di delocalizzazioni delle grandi aziende di call center nel nostro paese verso altri paesi, l'Albania, lo sapete, insomma, verso paesi a costo più basso. Il sospetto a qualche testata è venuto, a dire la verità. Però, ripeto, si tratta di una mera relazione giornalistica. Il punto è di capire che cosa è davvero cambiato, quindi cosa ci possiamo aspettare come cittadini da questa norma nuova, di capirla, e secondo, meglio o peggio. Allora, su questo i due ospiti della trasmissione, scusate un secondo, ahimè, colpo di tosse. Allora, grazie per essersi resi disponibili a intervenire su questo tema. Abbiamo con noi il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, buon pomeriggio. Eccoci, buon pomeriggio a voi. E senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, buon pomeriggio e grazie. Salve Oscar, buon pomeriggio a tutti. Perché uno potrebbe dirmi, ma no scusa, questa maggioranza, governo, perché 5 Stelle? Perché i 5 Stelle nella loro azione di proposte e emendamenti sono parte concomitante con altri anche in questa nuova norma, è così Castaldi? Sì, è così. Il movimento è riuscito ad ottenere qualcosina nel DDL concorrenza, ovviamente non siamo soddisfatti, lo siamo molto parzialmente, e siamo soddisfatti di questo emendamento che è a mia prima firma. Ha suscitato dei dubbi, ma questo emendamento è molto chiaro, è un emendamento di origine parlamentare, ripeto, è a mia prima firma, sì, ma sì, è finalizzato alla tutela dei consumatori, ovviamente è un piccolo passo avanti. Perché il Movimento aveva presentato una proposta emendativa molto ampia, ovviamente tanti emendamenti sono stati bocciati e purtroppo ce n'era un altro per l'Aula che non è stato purtroppo non è possibile discutere perché è stata messa la fiducia. È stretto, ecco, i tempi. Diciamo che il nostro emendamento ha l'obiettivo di consentire a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere eventuali chiamate non desiderate. Se fosse passato l'altro emendamento che prevedeva l'iscrizione al registro delle opposizioni di tutti i numeri telefonici, avremmo fatto bingo per i consumatori. Purtroppo non è così. La preoccupazione che il garante esprime, dal mio punto di vista, dai legislativi nostri, è completamente errata. Si deve intervenire sul registro delle opposizioni. C'è una norma sia al Senato con degli emendamenti di Marco Scibona, che è un nostro senatore, sia alla Camera, che addirittura è una proposta di legge della Mirella Liuzzi, quindi del Movimento. Se si interviene sul registro delle opposizioni riusciamo a tutelare veramente in toto i consumatori. Allora, per chi aspetta Gianluca, perché può essere benissimo che moltissimi tra coloro che ci ascoltano non abbiano presente che cosa sia il registro delle opposizioni. Il registro delle opposizioni nella legislazione vigente era, diciamo, lo strumento a disposizione per tentare di avere una difesa. Perché dico per tentare? Potrebbe sembrare che manco di rispetto allo spirito e alla lettera della norma. Perché ci sono migliaia e migliaia di casi documentati che tutti coloro che fanno il nostro mestiere, radio, televisione, eccetera, eccetera, hanno e ricevono di utenti in realtà che dichiarano: sì, io mi sono iscritto al registro pubblico delle opposizioni, cioè che dovrebbe appunto tutelare da chiamate indesiderate, ma in realtà mi sembra totalmente inefficace. Quando Gianluca Castaldi ci ha appena detto se fosse stato possibile intervenire in maniera più diretta sul registro delle opposizioni con quell'emendamento d'aula che invece poi non è stato possibile esaminare, che tipo di intervento sul registro delle opposizioni immaginate per rafforzare la difesa dell'utente? Ti ringrazio per questa domanda. Allora, il registro delle opposizioni contiene in sé un ossimoro, cioè trovata la legge, no, in Italia, esatto, è l'abilità sopraffina. Nel senso che nel registro delle opposizioni ci si può iscrivere solo ed esclusivamente se si è negli elenchi telefonici, ma se io ho deciso di non essere nell'elenco telefonico, quindi di fatto non voglio essere disturbato, non mi posso iscrivere nel registro. Gli emendamenti nostri, ma non solo nostri, c'erano anche altre forze politiche, miravano a iscrivere tutti i numeri fissi e mobili nel registro. Poi se io invece voglio dare il consenso ad avere delle informazioni commerciali o dei contratti, lo do. Ovviamente è una norma che tutela totalmente il consumatore, era da sistemare un po', però questo è il registro del positivo. Ad oggi questo registro non funziona, cioè anche chi è iscritto al registro viene chiamato. Quindi quantomeno questo emendamento dà una tutela, cioè io consumatore mi arriva la telefonata, devo sapere chi mi chiama, per conto di chi e cosa mi vuole vendere, e io devo dare un consenso oppure do il diniego. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Allora, l'opinione del garante è in realtà che qui con questo intervento i call center possono chiamare, voglio dire, ohimè, gli utenti senza barriera. È vero, si devono presentare, devono dichiarare apertamente lo scopo commerciale della telefonata e solo a quel punto il consumatore ha la possibilità di rifiutare l'offerta. Però, dice il garante, così non ci siamo, perché se si pensava di limitare, questa cosa estende. Dov'è che sbaglia il garante, secondo Castaldi? Io non voglio andare in polemica con il garante, però secondo me il garante, anche perché noi abbiamo preso molti emendamenti dalla linea che il garante ci ha portato in commissione, il garante qua commette un errore, perché questa cosa si può fare sul registro delle opposizioni, non nel DDL concorrenza, che comunque, come vi ho detto, noi abbiamo tentato con degli emendamenti di modificare. Si può fare con una norma sul registro delle opposizioni. Mi fa anche specie che il garante interviene oggi, dopo 10 mesi, perché questa, noi abbiamo approvato il DDL concorrenza in commissione il 2 agosto dell'anno scorso. Quindi se c'era da segnalare, come è successo, adesso non ricordo lo specifico, ma per quanto riguarda l'energia, c'era un refuso, chiamiamolo così, no? E il garante per l'energia ha fatto una segnalazione alla commissione e noi ne abbiamo preso atto e abbiamo modificato. Quindi io sono molto tranquillo che questa norma è pro consumatori e andiamo dritti per la nostra strada. Allora, iniziamo a sentire l'opinione del Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. Secondo voi la preoccupazione del garante, alla luce della norma, la cui genesi e anche la cui limitatezza stante la formula forzata di approvazione per abbreviare i tempi e che ha impedito l'esame di altri più forti emendamenti in aula, ma dà ragione o dà torto alle preoccupazioni del garante che dice in realtà voi avete eliminato i requisiti del consenso preventivo per le telefonate promozionali, quindi il telemarketing è più esteso rispetto a prima? Che dice Massimiliano Dona? Dico che le preoccupazioni del garante sono del tutto condivisibili. Questa è una norma che direbbe di farci fare un passo indietro anche rispetto all'attuale scenario. Mi conforta aver letto poco fa un'agenzia per la quale Renzi avrebbe dichiarato che il PD si impegna a cancellarla. Quindi forse stiamo discutendo inutilmente, me lo auguro. No, aspetta, inutilmente, però intanto è stata approvata. Capisco che Renzi è Cassazione, come sulla legittima difesa. Qualunque sia il voto del Parlamento, parla Renzi e facciamo come se la norma fosse già modificata. Vedremo, ma per il momento dobbiamo parlare di quella che è stata votata. Il mio è un auspicio, Giannino, perché quello che sto spiegando è semplicemente questo. Sì. La previsione di questo emendamento vorrebbe che ciascuno di noi possa ricevere una telefonata alla quale deve togliere l'auricolare, perché se è con l'auricolare, tutto, perché altrimenti noi non la sentiamo la voce. Non sono con l'auricolare. Ecco. Dicevo, l'emendamento vorrebbe far sì che ciascuno di noi può ricevere una telefonata, sì, alla quale dichiarare di non voler essere disturbato. Ora, è chiaro che già la prima telefonata arreca disturbo laddove ci siamo segnalati come soggetti non interessati a ricevere telemarketing, ma soprattutto, questo è poi ciò che accade nella pratica perché i consumatori ce lo raccontano ogni giorno, operatori che leggono frettolosamente dei disclaimer, delle informazioni commerciali e che rubano letteralmente un sì dal consumatore o magari dalla cameriera che trovano a casa mia nelle ore del mattino, e la mia vecchia nonna, il mio figlio minore. Perché noi, al di là del disturbo, denunciamo attivazioni non richieste, no, no, certo, di operatore esattamente, a nostra insaputa. Confermo che anche noi abbiamo pile di lettere che dicono questo. Quindi io non so se in buona fede è stato fatto questa proposta dal senatore Castaldi. Di certo c'è che l'effetto è un effetto perverso, perché vorrebbe dire tornare indietro anche rispetto all'attuale scenario, che certo garantista non è, perché è esperienza di tutti noi ricevere telefonate a tutte le ore del giorno sui telefoni fissi e sui cellulari, che chiaramente non possono beneficiare nemmeno di quel piccolo schermo che assicura il registro delle opposizioni. Allora, ha dato un'opinione chiara. Adesso un minuto di informazione di servizio sul traffico e poi risentiamo le controosservazioni del senatore 5 Stelle Gianluca Castaldi. A tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Allora, alcuni mi chiedono: ma tu hai detto che prima e poi come hai fatto a smettere? Beh, molto semplice, io ero bersagliato sul cellulare, io non ho più fisso, perché il mio fisso a casa ha servito all'utilizzo dei PC di casa, quindi noi abbiamo solo mobili, io e mia moglie, e speriamo di aspettare a lungo prima di dare ai nostri figli, ma capitoleremo anche noi, però abbiamo solo mobili. E sul mobile, naturalmente, il registro posizioni non funziona, e bisogna avere semplicemente la pazienza di identificare tutti i numeri da cui si è bersagliati e bloccarli, e non c'è alternativa che fare così. Io ne ho bloccati fino a questo momento 27, perché sapete poi che i numeri non sono affatto sempre gli stessi, non stiamo parlando nei gestori telefonici che hanno un servizio diretto, è sempre uno di solito, ma io ero bersagliato in particolare da due grandi call center multicliente, perché stiamo parlando di grandissime aziende che lavorano per moltissime aziende, che avevano decine di numeri, che hanno decine di numeri da cui chiamare, quindi è molto laborioso a volte, però ero entrato in un bersagliamento, voglio dire, abbastanza incredibile, cioè mi capitavano in particolare in due fasce orarie della giornata di ricevere 12-15 telefonate al giorno. Ecco, siccome il telefono per me è uno strumento di lavoro, come per tutti i giornalisti e così via, diventava sempre più, e quindi bisogna avere la pazienza di bloccare. Naturalmente non si bloccano tutti, ne ribecchi altri, a quel punto li blocchi e così via, e ovviamente una rottura di scatole, questo è fuori dai denti, bisogna dire che è assolutamente così. E lo dico anche con una punta di solidarietà assoluta nei confronti di chi sta nei call center, cioè io lo so benissimo che loro sono pagati anche per risultato e non solo per ore, e però ovviamente capisco il loro dovere e però voglio una maggior tutela del mio diritto. Allora, abbiamo sentito prima il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che dice: no, dal nostro punto di vista ha ragione come il garante della privacy, perché comunque qui le telefonate arriveranno. Sì, uno può dire no dopo la presentazione e l'illustrazione dell'oggetto, però intanto la telefonata arriva. Secondo, abbiamo una troppo vasta gamma di esperienza confermata e documentata di gente che alle prime smitragliate parole ancora più veloci di quelle che pronuncia Giannino da questi microfoni, la gente non dice no e poi si va avanti. Allora, Castaldi, che rispondere? Ma no, allora il dottor Dona può stare tranquillo, perché lavoriamo entrambi nella stessa direzione, verso la tutela dei consumatori. Nelle sue parole io ho capito dove c'è forse l'inghippo. Infatti lui dice: può ricevere. No, il nostro emendamento non apre all'apertura di ricevere nuove telefonate, assolutamente no, questo già avviene. Il nostro emendamento non fa altro che dire che se l'utente riceve, c'ha questa stampella, diciamo così. Sulla credibilità delle parole di Renzi non mi esprimo, peraltro Renzi interviene su un argomento che non conosce, perché in commissione ci abbiamo lavorato 2 anni lo conoscono molto di più forse i senatori del PD, ai quali sarebbe, sono forse gli interlocutori migliori, però le dico che... Però l'hanno votato loro, l'hanno votato loro questo. Certo, noi abbiamo due voti in quella commissione, quindi senza il voto di altri senatori il nostro emendamento non sarebbe passato. Però dico, io voglio rassicurare il dottor Dona, perché l'emendamento nostro va nella direzione in cui ho spiegato, è a tutela del consumatore, ma dovessi commettere un errore, c'è il passaggio della fiducia alla Camera prossimo, esiste un'operazione che si chiama drafting, quindi se le parole di Renzi, se Renzi è in buona fede, nel drafting alla Camera, perché metteranno, io cerco di essere più chiaro per i cittadini che ascoltano. Senza usare il tecnichese parlamentare. Esatto, quando mettono la fiducia non si può cambiare nulla, ok? Certo. Il maxi emendamento che arriva è uguale, però si possono dare delle specifiche, un'operazione di drafting per spiegare meglio l'intenzione di una norma. Quindi si può fare un maxi emendamento uguale con una spiegazione ancora che va ancora di più verso la direzione che le ho spiegato, quindi della tutela del consumatore. Poi ripeto e mi taccio, l'emendamento non interviene sul registro delle opposizioni, che è sotto la vigilanza del garante, quella è un'altra cosa. Certo. Però se non si interviene su quel registro, queste cose avverranno sempre, nonostante questa stampella che è riuscita a mettere in movimento. Faccio la domanda, la terza domanda, quella un po' cattiva da giornalista, che però deve anche investigare sulle ipotesi, per così dire. C'è chi ha scritto, in effetti potrebbe anche essere logicamente stare in piedi, visto l'impatto che hanno avuto le vertenze di crisi di delocalizzazioni di grandi multinazionali dei call center nel nostro paese, c'è chi anche ha fatto un retropensiero, ma non è che questa norma nasce come contropartita rispetto ai tavoli negoziali? Risposta innanzitutto di Gianluca Castaldi. Ma guardi, io nella 10ª commissione Senato devo dire che abbiamo lavorato con le dovute distanze, minoranza e maggioranza, ma sempre con molta serietà. E quindi non credo che ci sia questo. C'è un'interpretazione, alcuni interpretano questo emendamento così come diceva il dottor Dona, io ho la certezza che questo emendamento va verso la direzione del consumatore, ognuno ha fatto il proprio lavoro, il Partito Democratico, Forza Italia, il Movimento 5 Stelle, ma l'ha fatto in maniera molto trasparente e onesta, portando avanti ovviamente le proprie idee. Io non le condivido quelle del Partito Democratico, però non mi sento di dire che questo state... sospetto abbia un fondamento. No, esatto. Allora, farò la stessa domanda in conclusione anche a Massimiliano Dona. Sentiamo qualcuno dei nostri ascoltatori. Luca, dalla provincia di Roma. Luca, prego. Buongiorno Oscar. Sì. Allora, punto primo, io sono iscritto, penso tra i primi, al registro delle opposizioni, è totalmente inutile. Esatto. Secondo, cioè continui a ricevere le telefonate. Continuo, e addirittura delle telefonate da parte degli operatori che io ho già, hanno comportato il cambio della tariffa o del contratto senza che io mai abbia fatto un'intervista formale. E pensi che io addirittura sto attento a non dire mai la parola sì durante una di queste telefonate. Bravo. Sì. Nonostante questo ho avuto due cambi. Ora, dato che sono del settore telecomunicazioni, so che si deve fare il modello di la notifica all'autorità, però sono tutte cose molto articolate, complesse, gran c'è bisogno di tempo da perdere, e quindi è una rottura di scatole, come dice lei. Loro lo sanno, quindi... e infatti per questo hanno delle prassi commerciali molto discutibili, secondo me lesive dei diritti dell'utente, questa è la mia opinione da sempre, e tu le stai testimoniando, cioè si risulta anche a te. Esatto, io a questo punto più che bloccare i numeri, io non rispondo più ai numeri che sono al di fuori della mia rubrica, non rispondo più. Ecco, io per esempio per mestiere non posso farlo, perché un giornalista deve ascoltare e ti chiamano gente, tu magari hai chiamato i centralini, ti chiamano i diretti, quindi per me è molto più complicato, per me è molto più complicato. Comunque grazie Luca, perché hai confermato che il problema ha bisogno di un intervento di altro tipo, di cui magari una revisione generale del registro delle opposizioni dovrebbe essere forse il passo serio da fare, come ci diceva Castaldi. Sentiamo David che ci chiama da Catania. David, prego. Sì, buonasera. Dunque, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva lì poco fa sul fatto di bloccare i numeri uno ad uno, e quello che insomma stava dicendo Luca. Lo si può fare o a mano, uno ad uno, man mano che vanno chiamando, oppure si possono utilizzare delle app, ovviamente solo sui mobile, che automaticamente li riconoscono, perché già altri hanno bloccato quel numero, lo hanno segnalato, a me risulta scritto tipo truffa telefonica o qualcosa del genere, e fa un paio di squilli e poi viene bloccato automaticamente. Questo mi risparmia un sacco di Tu hai fatto così? Sì, non so se posso dire anche il nome dell'app che sto utilizzando io. Ma non stiamo facendo propaganda, è una testimonianza la tua, quindi se lo vuoi dirlo. Sì, utilizzo Truecaller, Truecaller, sì, se interessa Truecaller. Agli altri ascoltatori, insomma, avevo chiamato con questo spirito di condividere la mia esperienza. No, ma mia è un'informazione di servizio, ce ne sono anche altri, cari ascoltatori, ma sappiate che ci sono, ecco, rispetto a me che invece faccio manualmente, quindi... Sì, infatti, quindi, visto che diciamo la soluzione dell'iscriversi in questo registro, diciamo, non sortisce grandi effetti. Grazie Davide che ci hai dato questa dritta a chi ascolta, e rifaccio la stessa domanda cattiva a Massimiliano Dona. Lei ha qualche sospetto che dietro una norma come questa ci possa essere un favore alle multinazionali call center? Sì, ma non contropartita di questo tipo, perché i dati, insomma, lo spiegano, gli occupati in Italia sono 80.000, quindi diciamo, volendo anche ragionare in termini di contropartita di voto non mi convince. Invece la manina occulta, se così è stato, che ha mosso questo emendamento sono stati gli operatori, cioè non il call center che fa le telefonate, no, ho capito cosa ma dice. Il committente. Cioè in Italia quello è un mercato da 1 miliardo di euro, esatto, a vantaggio delle società telefoniche ed energetiche. Le energetiche in particolare, che come lei sa Giannino, vogliono farci cambiare dal mercato tutelato al mercato libero. I grandi macchinatori sono costoro, che tra l'altro sono i soggetti che danno i numeri ai call center. Esattamente. Cioè il call center, non c'è dubbio, mica ce l'hai, non lo reperisce in una banca dati. No, è chiaro. C'ha i clienti segnalati dal committente. No, vabbè, è evidente che è così. Grazie anche per questo elemento, che ripeto, è un'illazione, ma lo sapete com'è poi, no? Che insomma, bisogna sempre usare il cervello per fare uno più uno. Ma vedrete che domani, quando esamineremo nel dettaglio anche le altre questioni, quella energetica è una di quelle fondamentali del disegno di legge concorrenza. Domani dalle 10 alle 12 Conti della Belva, ve l'ho già detto, parleremo anche delle BCC. Grazie agli ospiti Massimiliano Dona, Gianluca Castaldi, continuate su Radio 24.